qui per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto e resti lì. Ed io ci credevo, ed io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi, perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Poi finisce qui, puoi fare a meno di fare almeno le cose facili. Se è vero poi più vero è, se va bene va bene così. E fragile, fragile, resti lì. E io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu da me, che cosa vuoi? Un altro amore come te, ma io non posso credere che esista un altro amore, esista un altro amore. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me?